GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sentinelle sul territorio per la sicurezza. A Trieste è rinnovato l'accordo tra il comune e una società privata di vigilanza. Ogni mese verranno impiegate guardie giurate nei luoghi giudicati più sensibili dalla polizia locale. Il mondo del lavoro incontra i lavoratori di domani. Oggi e domani a Trieste è il 13° Salone delle Professioni e delle Competenze. Due giornate di incontro con 2000 studenti delle scuole medie superiori ed esperti sulle diverse opportunità di orientamento e lavoro. Una novantina gli interventi dei vigili del fuoco per la forte bora dalla mattinata di ieri ad oggi, potenziata la sala operativa del comando di Trieste. A Budoia si discute sul progetto per la realizzazione di un impianto a biometano. Tra i punti contestati la vicinanza ad aree sensibili e la stessa struttura giudicata sovradimensionata. I luoghi di lavoro e la scuola dovrebbero adattarsi ai diversi bisogni del sonno di ognuno, dunque la scuola dovrebbe iniziare più tardi per venire incontro ai ritmi degli adolescenti. Lo sostiene il triestino Ugo Faraguna, docente di fisiologia all'Università di Pisa. Lo sport, calcio, impegno in trasferta a Monza per l'Udinese questa sera nel posticipo di Serie A. I bianconeri dopo Davis perdono anche il portiere Okoye, che dovrà operarsi al polso. Basket, quarto stop consecutivo per Trieste, che perde in casa contro Brescia, in A2 sconfitta anche Udine, che cade in trasferta sul campo di Livorno. Ancora un cordiale buongiorno da Daniele Lettige e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio, che apriamo con la sicurezza sul territorio, perché a Trieste è stato rinnovato l'accordo tra il comune e una società privata di vigilanza. Sentiamo meglio. Fino a 40 segnalazioni l'anno arrivano dalle guardie giurate armate coordinate dalla Polizia Locale di Trieste. Il progetto è stato rinnovato fino al giugno del 2026 grazie al finanziamento di 300.000 euro annui della Regione. Ogni mese saranno impiegati vigilanti per un totale di 800 ore in luoghi sensibili che di volta in volta la Polizia Locale individua. Più recentemente l'attenzione è stata rivolta alla zona di Via Giulia del Giardino Pubblico e sul quartier di San Giacomo, ha dichiarato l'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, Caterina De Gavardo. Invece si è rivelato meno problematico del passato quest'estate il lungomare di Barcola. Il servizio è sussidiario rispetto a quanto già fanno quotidianamente le forze di polizia e si svolge su autorizzazione prefettizia con precisi limiti. Le guardie giurate armate non possono effettuare servizi di vigilanza generiche di controllo del territorio e non hanno poteri sanzionatori. Sono sostanzialmente delle sentinelle che hanno il compito di segnalare reati o situazioni critiche alle forze di polizia. Altra funzione dichiarata è quella di deterrenza. La giunta regionale punta molto su questo tipo di attività anche con altre linee di finanziamento milionari, non per sostituirsi alle forze dell'ordine, ma per liberarle da impegni meno utili rispetto alle loro competenze, ha spiegato l'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre persone sono rimaste ferite a causa di un incidente che si è verificato la scorsa notte poco dopo l'1:30 nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova in direzione Trieste. L'impatto, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, ha coinvolto tre veicoli con due auto che si sono rovesciate. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, l'elisoccorso e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Da una delle auto si è staccato il blocco motore che ha causato il danneggiamento degli pneumatici di un pullman che stava sopraggiungendo nell'area dove si è verificata la collisione. Grazie a mezzi speciali dei soccorsi meccanici, la corriera è stata portata nell'area di servizio di Gonars Sud, mentre il personale della concessionaria ha prestato soccorso logistico agli occupanti del pullman diretto in Romania, in attesa dell'arrivo di un altro mezzo. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo da nuvoloso coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 8 gradi, vento a 58 km orari da est nord-est, bora, con raffiche che hanno raggiunto i 99 km orari, a Gorizia e Pordenone 8 gradi, a Udine 9, a Tarvisio e Sappada 0 gradi, a Forni di Sopra 1 grado, a Piancavallo 1 grado e mezzo, a Tolmezzo 3 gradi e mezzo, sul Monte Lussari meno 5, sul Monte Zoncolan meno 4, a Grado e a Lignano 9 gradi. Queste le previsioni per oggi. Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con possibili schiarite pomeridiane in pianura. Sulla fascia orientale soffierà bora sostenuta, specie sul Carso e a Trieste. E sono ancora una decina gli interventi in coda per i vigili del fuoco di Trieste impegnati da ieri con 4 squadre e 2 autoscale per evadere le chiamate relative ai problemi causati appunto dalla forte bora che nella sua fase più acuta ieri sera ha raggiunto i 117 chilometri all'ora. In tutto sono state oltre una 90 le richieste di intervento per cadute di rami e problemi con pezzi di intonaco, infissi e tettoie, ma non si sono registrate situazioni di particolare criticità. Potenziato il comando dei vigili del fuoco a Trieste. Secondo le previsioni dell'OSMER, appunto, come abbiamo sentito, ancora per la giornata di oggi saranno possibili raffiche forti fino a 90 km all'ora, mentre da domani le raffiche inizieranno a calare di intensità. L'amministrazione comunale ha disposto anche per oggi la chiusura dei giardini pubblici. Per quello di Villa Revoltella sarà garantito l'accesso alla chiesa nel consueto orario di apertura e di chiusura. Anche il giardino di Villa Sartorio rimarrà aperto con il consueto orario unicamente per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici. Lievi nevicate si sono registrate invece in montagna con una 10 cm caduti sia in Carnia, in particolare tra Sappada e Forni di Sopra e a Tarvisio. Iniziato oggi al Centro Congressi del Porto Vecchio di Trieste il 13° Salone delle Professioni e delle Competenze, organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Una 2 giorni di incontro tra 2000 studenti delle scuole medie superiori, genitori, docenti ed esperti sulle diverse opportunità di orientamento e lavoro. Su 22 scuole superiori delle province di Trieste e Gorizia invitate al centro congressi in Porto Vecchio per 2 giornate di orientamento al lavoro si sono presentati quasi tutti gli istituti, 19, per un numero totale di studenti che sfiora i 2000. Ci sono licei, istituti tecnici e professionali, tutti insieme per creare una giusta proporzione di tipologia di studi e di interessi. Affollano i 42 stand del Salone delle Professioni. C'è davvero di tutto, dall'esercito agli ordini professionali di giornalisti, ingegneri, commercialisti, professioni sanitarie e gli ITS, istituti tecnici superiori post maturità. Chiediamo ai ragazzi se hanno le idee chiare sul proprio futuro. Molti sono convinti di dover andare via dal Friuli Venezia Giulia, un tema questo che ha calcato anche Alessia Rosolena, assessora regionale al lavoro e all'istruzione, facendo appello alle aziende della regione perché offrano sempre più contratti all'altezza delle aspettative dei ragazzi, altrimenti sarà inevitabile l'esodo verso altre regioni o all'estero. Le fa eco Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, che dice gli stipendi sono troppo bassi, la concorrenza fuori dal Friuli Venezia Giulia è grande, dobbiamo fare di più. E il focus di questa iniziativa del Salone delle Professioni e delle Competenze è anche sui genitori che interverranno in questi 2 giorni con degli incontri ad hoc per loro per aiutare i figli a orientarsi. È intervenuto anche lo studio Ambrosetti, studio di consulenza aziendale con sede a Milano, nella persona di Pio Parma, che ha spiegato come il Friuli Venezia Giulia stia facendo un grande lavoro, più intenso rispetto alle altre regioni, per incontrare offerta e domanda di lavoro. Il suo consiglio per gli studenti in estrema sintesi è di puntare sugli ITS, gli istituti tecnici superiori post maturità, perché senza dubbio sono quelli che permettono di trovare lavoro nel più breve tempo possibile, un lavoro anche ben remunerato. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci a Budoia, dove sta facendo discutere il progetto per la realizzazione di un impianto a biometano. Tra i punti contestati, la vicinanza a aree sensibili, la stessa struttura, giudicata sovradimensionata, e il traffico. Fa discutere il nuovo progetto di impianto biometano che dovrebbe sorgere in un'area verde di 8 ettari a Budoia, al confine con i comuni di Fontana Fredda e Polcenigo, Pedemontana, Pordenonese. Una petizione appena lanciata ha già raccolto 900 firme. Vengono contestati il mancato confronto con le comunità, il sovradimensionamento dell'impianto che prevede una capacità di trattamento di 90.000 tonnellate annue, il traffico fino a 50 camion al giorno che transiteranno sulla viabilità locale e l'impatto ambientale. Davide Zuliani, consigliere comunale di minoranza del comune di Budoia. Campagna libera, andare a costruire una struttura di 8 ettari che va chiaramente a rovinare tutto il paesaggio tipico di questa zona. Ultimo punto è il fatto che l'utilità pubblica di questo impianto è praticamente nulla. È un privato che viene qua a investire e i cittadini non riceveranno nulla in cambio. Adriana Del Tedesco, consigliera comunale di minoranza del comune di Fontana Fredda. Per noi ci sono delle conseguenze molto gravi sulla viabilità. Secondariamente abbiamo l'acquedotto qui a 600 metri ed è un acquedotto molto importante con qualità dell'acqua molto buona e noi abbiamo già sofferto per un grave inquinamento del nostro acquedotto negli anni 80. Il comune di Budoia ha ricevuto le relazioni tecniche il 2 ottobre e la scorsa settimana ha organizzato un partecipato incontro pubblico. Entro il 19 dicembre dovrà inviare alla regione il proprio parere in merito alla variante urbanistica proposta. Il sindaco di Budoia, Ivo Angelin. Ci sono parecchi svantaggi usciti dalle considerazioni della nostra cittadinanza. Io devo tenerne sicuramente conto. E ne terrò conto perché da quello che emerge, pur essendo un progetto strategico, credo che debbano essere prese in considerazione tutte queste osservazioni. Budoia, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. I luoghi di lavoro e la scuola dovrebbero adattarsi ai diversi bisogni del sonno di ognuno, dunque la scuola dovrebbe iniziare più tardi per venire incontro ai ritmi degli adolescenti. Lo sostiene il triestino Ugo Faraguna, docente all'Università di Pisa, che da anni studia i segreti del riposo notturno e stamattina è stato nostro ospite a Buongiorno Regione. Per gli esperti del sonno, il mondo si divide in due, le persone gufo, cioè più nottambule, e quelle allodole, dunque mattiniere. Gufi o allodole si nasce, per la salute però è meglio essere allodole. Ugo Faraguna, professore di neurofisiologia alla Scuola di Medicina dell'Università di Pisa. I gufi sappiamo che hanno un fattore di rischio per le malattie da gioco, la ludopatia per esempio, e hanno una propensione maggiore per le patologie psichiatriche. Gli adolescenti fisiologicamente diventano gufi per alcuni anni. La scuola comincia alle 8, non dovrebbe cominciare alle 8 la scuola degli adolescenti, perché dalle 8 alle 10 l'adolescente tendenzialmente dorme, anche se sembra sveglio. Dormire bene è fondamentale per vivere in salute. Un italiano su 4 però soffre di disturbi del sonno. La patologia più diffusa che l'insonnia è la medaglia notturna dell'ansia diurna. Chi è ansioso di giorno, di notte non riesce a dormire. E questo probabilmente è legato a dei meccanismi socioculturali di ritmi che sono aumentati oltre quella che è la capacità dell'uomo di gestire la velocità dell'esistenza. Per i tanti che non riescono a dormire, uno dei rimedi più noti è la melatonina. La melatonina serve se data nel momento giusto. Purtroppo spesso viene data nel momento sbagliato. E qual è il momento sbagliato? 30 minuti prima di andare a dormire, che è quello che scrive il bugiardino, che infatti si chiama bugiardino. L'idea che è emersa negli ultimi studi è che vada data 3 ore prima dell'orario desiderato di addormentamento. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Un volto noto di Rai 3, ora in pensione, Maurizio Mannoni, ha presentato a Trieste il suo primo romanzo, un giallo ambientato nel più grande centro di produzione Rai di Roma, Saxa Rubra, l'omicidio di un conduttore TG molto amato. Il conduttore TG più amato viene ucciso, un mistero che la TV pubblica si affretta a dimenticare, lasciando impunito l'assassino. Un collega ostinato, però, cerca la verità dentro alle ombre che si allungano quando si spengono le luci della diretta. Giallo o delicata storia d'amore, finzione o realtà? C'è tutto questo nel romanzo Quella notte a Saxa Rubra, appena edito dalla Nave di Teseo, il primo libro di Maurizio Mannoni, volto noto della Rai, dove ha lavorato per 40 anni. Dicevo ai miei amici e colleghi che io mai avrei scritto un libro. Invece sono andato in pensione e così questa storia mi è nata quasi spontaneamente. Non volevo fare un memoriale perché ce ne sono. Allora ho detto faccio un romanzo e dentro questo romanzo però ci metto anche pezzo della mia storia. Affollata la presentazione del romanzo al Caffè San Marco di Trieste, guidata da Giovanni Marzini, ex caporedattore Rai. Un romanzo che non è fiction, ma una sequenza di storie vere, come quel 20 marzo del 1994 e la tragica notizia dell'uccisione in Somalia della giornalista Ilaria Alpi e del telecineoperatore Miran Rovatin. Un'occasione per aprire il cassetto dei ricordi e confonderli con la trama del romanzo. L'io narrante, che sono io, rielabora, insomma va alla ricerca di quello che successe qualche tempo prima con la fine tragica di un suo amico, un altro collega, e va piano piano, scopre quello che realmente è successo, ma che non vi svelo ovviamente. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora parliamo del progetto Laboratorio Musicale in Carcere Più di 100 Note, articolato in 12 incontri con il supporto e il coordinamento di due educatori con specifiche competenze in ambito musicale. Il progetto è stato finanziato dal Ministero della Giustizia, che ha permesso di acquistare la strumentazione musicale che rimarrà a disposizione della casa circondariale e sostenere i costi del servizio educativo. Il laboratorio, con finalità di tipo ludico, ricreativo ed educativo, ha utilizzato la musica per creare momenti di socialità anche per chi non possedeva specifiche competenze musicali. Al progetto, nato grazie alla collaborazione della direzione della Casa Circondariale di Pordenone, del Distretto Sanitario Noncello e del Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e della Cooperativa Sociale Itaca, è stato rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Pordenone. In Val Resia nasce un nuovo spazio per i giovani, la Casa di Crama. Situata nell'ex caserma dei Carabinieri, si tratta della sede dell'associazione Crama, nome che richiama lo strumento di lavoro principale dei merciai ambulanti che dal 1500 viaggiavano in tutta Europa. Progetto culturale giovane e innovativo. All'interno del nuovo spazio ci sono una stanza studio e uno spazio di co-working rivolto a studenti e liberi professionisti. Una stanza per organizzare eventi come cineforum, letture condivise, corsi di teatro, uno spazio di registrazione audio, tutti usufruibili tesserandosi all'associazione. Atmosfere natalizie per il secondo appuntamento in stagione della Società dei Concerti di Trieste alle 20.30 al Teatro Verdi con Alessandro Scarlatti, messa per il Santissimo Natale, insieme al coro e all'orchestra Ghisleri diretto da Giulio Prandi, intorno a un progetto di ampio respiro, far rivivere nel mondo contemporaneo il modello delle grandi cappelle musicali del Settecento e riscoprire gli straordinari capolavori dimenticati di grandi autori italiani. Proprio a Prandi abbiamo chiesto di illustrarci il programma della serata. Quello di stasera sarà un concerto molto molto festoso, perché la messa di Scarlatti per il Santissimo Natale è tutta costruita sulla pastorale che è la firma sonora del Natale, basta pensare a Tu scendi dalle stelle. Quindi abbiamo la ricchezza straordinaria del virtuosismo scarlattiano con 9 solisti, niente meno, 2 violini e basso continuo, ma anche questo tema molto popolare, molto gratificante, che fa capolino regolarmente all'interno della messa, che ripeto è davvero festosa, è un brano che mette molto di buon umore. In alternanza con questa messa avremo corelli, corelli vero, cioè corelli delle sonate, anche se coeve, romane, di quel periodo, e anche un curioso corelli trasformato da Tonelli, un compositore dei Carpi, che ha messo le parole di alcune composizioni religiose, Ave Regina Celorum, per esempio, alle sonate di Corelli. Ha lasciato questo volume di sonate che diventano quindi mottetti, con un simpatico esergo che era «Se il divino Corelli imparerai, Arcangelo Terren diventerai», quindi probabilmente un'opera didattica. Per chi non conosce nel dettaglio la musica classica, ci può dire in poche parole chi erano Scarlatti e Corelli? Alessandro Scarlatti è niente di meno che uno dei padri della scuola napoletana. Nulla in Europa sarebbe stato quello che è nella musica senza la scuola napoletana. Si ritrova tracce di Pergolesi fino al Mozart Natura, insomma, quindi Alessandro è uno dei padri di questa scuola, uno dei più geniali. Corelli era invece grandissimo violinista, compositore che ha lasciato relativamente poche opere, ma un corpus soprattutto di sonate e di concerti grossi, quindi prevalentemente sostanzialmente musica violinistica, poi allargata anche all'orchestra. Grandissimo virtuoso dello strumento, ma anche grandissimo conoscitore delle emozioni umane, perché le sue sonate sono davvero espressive. Siamo allo sport, il calcio. Udinese in campo questa sera alle 20.45 a Monza per il posticipo della Serie A. I bianconeri puntano a rilanciarsi dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime 5 gare, ma devono fare a meno del portiere Okoye e dell'attaccante Davis, entrambi infortunati. L'inverno è alle porte, il caldo e poi il tiepido autunno sono un ricordo, quasi come l'inizio sorprendente dell'Udinese. In testa alla classifica dopo 4 giornate, nelle ultime 5 invece soltanto un punto, nell'ultima partita la sconfitta in casa con il Genoa. Momento difficile condito dagli infortuni di Okoye e Davis, portiere e centravanti, pezzi importanti per Runjajić. Così la gara con il Monza diventa fondamentale nel cammino dei friulani, a più 5 dalla zona pericolo. Nemmeno la squadra di Nesta però se la passa bene, penultima quota 10, senza vittorie in casa da 11 turni, 4 pareggi e 7 sconfitte, il parziale. Sentiamo Rugnaic. Noi dobbiamo concentrare su noi stessi, noi dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo mettere la giusta energia sul campo, non dobbiamo commettere ingenuità e dobbiamo cercare di mettere sul campo il nostro modo di giocare. Non dobbiamo autoprovocarci delle sorprese, come per esempio nell'ultima partita. Con Luca titolare aumenta la pericolosità sui colpi di testa dell'Udinese, che ha segnato 6 reti con questo fondamentale, più di tutti in Serie A insieme all'Atalanta, mentre il Monza è la formazione che ha subito più gol, 7, in questo modo. Nesta dovrebbe recuperare Maldini, da schierare sulla tre quarti con Mota alle spalle di Djuric. Il rientro importante per Rugnaic è quello di Biola al centro della difesa. Assente Touré, per squalifica il suo posto Christensen. In porta Sava al debutto in campionato. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il basket, quarta sconfitta di fila per la pallacanestro Trieste, ancora priva dei tre americani, nella decima giornata del campionato di Serie A1. In un Palarubini tutto esaurito, gli alabardati si sono arresi per 65-69 contro Brescia. Sentiamo. La quarta sconfitta di fila al sapore agrodolce. La Trieste azzoppata dagli infortuni a tre stranieri, quello comunicato di Brown che ne avrà per un mese, quelli misteriosi di Ross e soprattutto di Reyes fermo in pratica all'inizio stagione, gioca a tre quarti da incubo con percentuali d'oratorio e si ritrova nell'ultimo buttando tutto sul parquet, ma non basta. Curiosità, tra le assenze anche un arbitro che costringe i due presenti a fare male gli straordinari. In una giornata stortissima il tiro Trieste mostra per 30 minuti tutte le sue fragilità, regge l'urto dello spauracchio Bilan per un solo periodo con il tenero Johnson che si carica di falli, oltre a sbagliare lo sbagliabile in attacco. Quando le palle perse si susseguono e i tiri smettono di entrare, la pallacanestro Trieste di fatto sparisce dal campo, nonostante Brescia non sia particolarmente precisa. A inizio ripresa, tre banalissime palle perse consecutive regalano agli ospiti la doppia cifra di vantaggio, mentre Christian colleziona il terzo fallo tecnico nelle ultime tre partite protestando con la coppia arbitrale, apparsa in difficoltà. Trieste cede a rimbalzo in ogni statistica perché non ha bocche da fuoco credibile, fa 17 punti nei due quarti centrali e da tre non segna veramente mai. 3 su 24 nei primi 30 minuti, con Brescia che non fa molto meglio. Il vantaggio così tocca le 21 lunghezze, ma nell'ultimo periodo la mira dei triestini migliora e permette di rosicchiare punti su punti, meno 10 con un'improbabile bomba di Brooks, mentre Bilan continua a dominare. Il croato si autoaccusa di un tocco e vince il premio sportività. Luzier ne approfitta per andare fino in fondo per il 53-61, imitato da Jutov per il meno 6, ma è tardi perché Valentine rimane un fantasma fino all'inutile bomba finale, 65-69 con 16 punti di un ottimo Luzier. Intervenire sul mercato ora diventerà fondamentale per non doversi guardare le spalle. Il presidente Matijašić dovrà mettere ancora mano al portafoglio per almeno un innesto temporaneo, con due soli visti da spendere, sperando che Reyes prima o poi torni in campo. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. In A2, brutto stop per l'APU Udine a Livorno. La squadra di Vertemati disputa una prestazione sottotono in un infuocato Palamacchia e cade di fronte a una neopromossa. 85-60 il risultato finale. Prendere 25 punti da una neopromossa, si chiami pure Livorno, non sembrava nelle corde di questa Udine, invece è quel che è successo in riva al Tirreno. Libertas 85, APU 60, dice il risultato finale. A far notizia è la miseria di punti messa a segno dagli uomini di Vertemati. In particolare fa impressione il 16% nei tiri da 3 su 25 tentativi, un naufragio dal quale non si salva nemmeno Mirza Libegovic, che pure è il miglior marcatore friulano con 15 punti, ma che dall'arco ne mette solo 1 su 6. E così nasce una partita nella quale Udine va subito sotto di 11 con il primo canestro che arriva solo dopo 5 minuti di gioco e con l'ex Trieste Adrian Banks, che a 39 anni suonati diventa un rebus per il quale la difesa friulana non si dimostra un assolutore più che abile, segnando 29 punti. Il vantaggio minimo per Livorno nella prima metà di gara è di 8 punti, all'intervallo lungo si va sul meno 14 e nella ripresa l'inerzia non cambia, con Livorno sempre in controllo del match e Udine che continua a sbagliare. Un brutto sogno che diventa un incubo nell'ultimo quarto con i toscani che dilagano e Udine che assiste senza poter reagire. Una sconfitta che lascia i friulani al secondo posto in classifica fallendo il sorpasso su Cividale che adesso ha gli stessi punti ma una partita in meno. Allunga in testa Rimini che ha 4 lunghezze di vantaggio con un match da recuperare. Udine torna in campo venerdì sera al Carnera con la diretta Rai Sport per la sfida con Rieti. Andrea Vardane, TGR Friuli Venezia Giulia. Pallavolo, in Serie A1 femminile, la CDA Talmassons ha perso in casa contro Perugia per 3-0. Questi parziali 22-25, 23-25, 20-25. Per le ragazze di coach Barbieri, che sono rimaste attaccate al match solo nel primo set, una nuova sconfitta casalinga. Quest'anno, fra le mura amiche, non hanno ancora mai vinto, contro una concorrente diretta per la salvezza. La CDA resta al terzultimo posto in classifica con 8 punti e nel prossimo match giocherà ancora in casa contro Busto Arsizio. In Serie A2 maschile, invece, bella vittoria per la Tinet Prata, che ha battuto 3-1 i campani dell'Aversa, confermandosi per la terza domenica di fila in cima alla classifica. Il canottaggio, 2 ore e 1 argento per gli equipaggi del Circolo Canottieri Saturnia di Trieste nell'ultimo campionato italiano in acqua della stagione che si è disputato a Sabaudia. Sulla distanza dei 6.000 metri, Pietro Blasic, Novak Mitrovic, Sebastiano Guido Monti e Andrea Bocer hanno conquistato il titolo italiano nel 4 di coppe under 17 maschile. Vittoria anche per gli under 19, sempre nel 4 di coppia maschile, squadra composta da Matteo Cecotti, Matteo Trevisan, Emanuele Rossi e Samuele Zanella. Secondo posto infine nel 4 di Coppa Senior femminile per Maria Elena Zerboni, Samantha Premer, Vittoria Pastorelli e Thea Fortunat. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Riccardo Stoic e Marco Ferrito. Da parte di Daniele Lettig e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.